ritorna la voce. Ma adesso mi ha peggiorato. Stamattina non ero così. Bevo una bella supposta di Veramin, bella grossa. Lei che ti fa dei mari, da voi ti fa venire a doccia. Ci vuole la pomata del mio duro. Toros. Vabbè, proveremo tutto. Se no vado dall'asino della Crucca e mi faccio fare quel lavoretto lì. E vedrai che passa tutto. Poi che cocco valevi quell'asino? Boh, andiamo a vedere Lucariello, gara. Sembra brutto, ora ce lo do mal di gola, ho un po' di tosse, se no faccio un po' di bronchite, questo poco va sicuro, ha giubilato un po' con freddo da poco. Da qua davanti in bicicletta, da lungata con freddo, casino, l'inverno è bello, ma non è bello. A me mi ha fregato come un salame lo stesso. Siamo usciti, c'era freddo e ci ha fregato di brutto. L'offio, mi sei sudato dalla stufa, vieni di Rugherosene, va a fanguala. E io rifornito poco fa, Natali. Mi ha fatto bi e sei sudata. Vabbè, comunque non consuma molto, dai. Consuma meno di quell'altra, capito? Non riesco a schiacciare bene questo cavolo di microfono. Io ho fatto un rifornimento poco fa, 2 giorni l'ha fatto, dai. E anche a me, se la tengo sempre accesa, però, se no non è che mi riconsuma così. Ma qual è il libro solo? Timbro, ma scalda un bel. Lo so che scalda un bel quella. Adesso rifornisco, li prendete voi. Bravo, da ci metti Zimbro o che lo sei? Zimbro. E non costa di più quello. A volte prendo un bidone di uno, un bidone dell'altro, vedo. Adesso gli ho messo carogene e va bene lo stesso. Bravo, non ce la si fa bene tutto. E c'ho anche quella accesa, 2 ne ho accesa. E cos'è la fornace? Ehi, ma un caro di 9 Gianni, ci siamo tante qua adesso. Ma qua ci sono riscaldamenti e il caldo è, diciamo, ci saranno 22 gradi, 21 gradi. Ma il problema è quello che poi c'è caldo qua e se non giù a buttare la calzatura e mi frega, capito? Quello è il cambiamento di temperatura, gli sbalzi di temperatura fanno male. Allora, è quello lì il problema. Ma invece qua è abbastanza graduata, non c'è né caldo né freddo, è normale, dai. Una temperatura ambiente più. Sì, lo so, i termosifoni sono così, sono calati a una buona temperatura, mi sa che sono, quando sono 18 gradi, 19. Sì, 21 gradi dentro casa sono. No, ma quelli di mia suocera che erano in ghisa, davano un carro, non si poteva stare, mi ci faceva la faccia rossa quando andavo a casa sua. Tu pensa che a Livigno vi sono meno 20 gradi, meno 20. Fatti un po', meno 20 gradi. Sarà la neve. Meno 20 gradi, cosa vuol dire? E ti congeli. E che mi dici congeli già il liquido radiatore? Ti sto dicendo, lì non te lo trovi più quando vai a fare bisogno. E ti rimane l'installatito attaccato. Offra, il gasolio c'era. E se è sudata così, va la giù durata fin lì. Allora, se l'hai mossa o l'avete mossa, perché se la muovi c'è un sensore che tu come la muovi si spegne in automatico. Ehi, è lo so, però allora non vengo niente atteso. Me, se tu la dai su là, aspetta che ti dico cosa mi dice. Si ritrova qua, senta gasolio, ti dice a mettere carosene nel serbatoio se fa di DVD. No, allora, non è che va in allarme, no? Che codice ti esce del display? B5, B4, la dirizzi? Fa una cosa, spegni la stufa, solleva il bidone e rifilalo. Capito la tariffa? Ne prendi già. Ehi, ma mi sa che sono un po' pericoloso con le stufe, mamma mia. Mamma ce l'aveva che rosere. E una volta l'ha pigliato, deve essere il vento contrario, ha fatto alzare la fiamma e è uscita fuori dalla stufa. No, già, sono a norma di sicurezza, queste qua vanno bene, non le danno problemi, magari quelle vecchie a volte si prendevano fuoco pure via, ma queste hanno i sensori, hanno tutto. Ah, sì, vabbè, nuova generazione. Nuova generazione, c'è il sensore, se la muovi si spegne in automatico, c'è il sensore della ventola, se non funziona la ventola si spegne, va in allarme, capito? Ma grande? Sì, grande, cosa sarà? Mi sa che mezzo metro per mezzo metro. E ora non è che sia così grande. E già va bene. No? E come mai ci ha aggiunto quella? Non scaldava quella. Di solito quella prete scaldava. Sì, perché la voglio questa qua, cioè, gliela regalata la sorella Lucia, capito? Questa stufa libero. E quindi l'ho messa in cucina perché quella corso a pellet solo la camera da pranzo mi scalda, già è la camera da letto, non ce la fa scaldare tutto, le lascia tutta la giornata accesa. Ah, ho capito, e vabbè, un sacco ci vuole da un giorno, quasi un sacco. Sì, un sacco, diciamo un sacco no, ma quasi. È quasi un sacco, sì. Io lo so perché i clienti che lo portavo mi dicevano così, che ci vuole, che lo attacca la mattina e la sera, ne mette un sacco quasi, che avanza appena appena. Allora, ti volevo dire, io il pellet l'avevo preso a 7,99 in offerta era. Beh sì, da rete devi andare, c'è sempre un bedigetto, deve essere che lo fa di meno. Lo so già, ma io ho preso pellet e lo serviva, capito? Ho pagato 6,90 e ti sporca la stufa e non scalda. Quello diabete è l'unico, mi fa. L'unico è quello diabete. Infatti sto prendendo quello io, capito? E va benissimo, è pulito, la stufa non la sporca e scalda un bel. Il diabete è il migliore che c'è di lì, gli altri sono legnamisti. E chissà che legna è, non lo so, comunque deve essere legnamista, chissà come la fanno questa cosa, non ho idea. E allora legnamista è ci mettono un miscuglio di legna, poi la macina, non la pressano. Allora, fatemi tutta la mondetta che ci buttano dentro. Allora. Oh, ma volevo ricordare, io pellet che è già rigato, dato all'ultimo piano. Anche 5 sacchi di pellet, 10 sacchi all'ultimo piano. Vabbè, è ok. Quello che avevano fatto un regalo già, mi hanno regalato un RIM da 300, un RM, tipo quello che c'è tu. Cava di positivo, mi ha regalato a Tonello, uno che abita qua vicino a casa, che ha smartellato tutto lui, dal camion e me l'ha regalato. Mi ha regalato quello e anche un microfono. Che modello è? Adesso non lo vedo, non l'ho ancora piazzato, ma c'ero nell'armadio. E comunque è nero, c'ha la manopola nera e poi c'aveva le spie verde, quella roba lì. Dopo te lo dico che modello è, perché ce l'ho nell'armadio, non l'ho collegato, lo volevo piazzare a provarlo, ma adesso non ne ho voglia. E pure il microfono ha smantellato tutto, mi ha dato un'altra antenna di macchina. Oh, è sempre buscando stai. Tata, mi ha dato un'antenna di macchina, se dico che antenna e non ci credi. Non lo so. Ti ricordi le vecchie Sigma, tutte in fibra di vetro nere? Come si chiama? Sigma, però c'ha la... non è in acciaio, è tutta in fibra di vetro nera. Fibra Sigma di X, bianca. Nera. E la Sigma di X, c'è la bianca e nera. La Sigma di X, quanto è alta? Mi pare lunga più di un metro e venti mi pare, una fare del genere, che da poche pesanti. E la Sigma di X che c'ha il mollone, c'ha. Esatto, sì, c'ha il mollone, è uguale a quella là, però c'ha il mollone questa qua, ed è tutta nera, sì, su, tutta in fibra di ferro, con la spirale interna tutto in rame, sino a su. Allora non è quella, perché la Sigma di X, sì, ce l'ha in rame, ma non si vede. Il della cosa della Mantova 5. Come sono fatti, già lo sai come sono fatti. Questi sono uguali a quelli, però è in nero, capito? Ho capito come, sì. E come c'è l'attacco a vite? Uguale a quella a baionetta, uguale alla sigla, la PCL 1000. Ho capito. E provala, magari va bene. E mongo in macchina questa cosa, quindi faccio la capota. Nel camper va bene. Natalia, un bel pesante, cazzo lui. Non è roba da mettere in macchina quella. Lo so. È partita la zuffa, Sta andando adesso. Chissà cosa cazzo l'è pigliata zura. E magari qualche impurità, Natalia. È la minima cosa, si blocca, Se la tocchi poco a poco, ti la zuppi, si chiuda subito. Sì, perché c'è il sensore, Natalie. Però se te lo fa, a volte succede che mettiamo il serbatoio, non lo spingiamo bene, e ti fa quel lavoro lì, capito? Sì, ho capito. Adesso sta andando. Perché la giubilata di Lugose non era più, dove era Lugarosene, che un preso. Quella zuffa all'interno del serbatoio c'è un piumino, c'è una valvola che tu quando lo metti giù la valvola preme e fa scendere il gasolio. Una volta che riempito il contenitore aspetta 5 secondi per l'accensione. Magari non ho aspettato qui 5 secondi e mi ha fregato per quello. Ha subito ciudato, ha fatto bi e è spento poco fa. Ma vai andando bene. Ma io ce l'ho accesa in cucina, c'è un caldo, l'ho messa a 20 gradi, ma non si può già. Già lo so, ci sarà mia. Andava a vino. Butta l'aria calda, butta, è di lusso. 290 euro costa adesso quella stufa, è aumentato. Già lo so, questo non me. Chi da giù rigarata si è pigliata Giuseppe. Si è fatto bene rigarata, chissà, oramai era andata Natalia. Giuseppe se l'ha presa, quello dell'ultimo piano. Sì. Te l'ho detto, ma la volevano regalare a me una, già l'hai visto c'era anche tu. Non è brutta, cosa vuoi dire? Magari nella mia ci voleva solo lo stoppino mio, Però chi c'è in mezzo, non venuta di fare, non farsi fiago, non farsi nuda, è troppo doga. La giubagata, ma è di lusso. Allora, il problema è che quella là non era ventilata, capito? Invece questa, essendo ventilata, l'aria calda te la butta e te la distribuisce su tutto l'appartamento e ti toglie anche l'umidità, capito? Già lo so. No, questa già è di lusso. La grande, la tariffa va benissimo, io ce l'ho, guarda, ti ho detto prendi quella e poi ce l'hai pista, non c'è problema, perché scalda bene, tutto lì, vai già. Poi vabbè, adesso fra poco ci dimentichiamo delle stufe, fra poco verrà la primavera. Sono per chiusura che arriva l'estate, che mi dico camper, col tender, uia. Pescare, mi sono ripreso adesso. Quest'anno mi porto Venezia a largo col tender da 2,5 metri, motore tu, e a largo. Io mi compro il coso e dove si chiama? Un elicottero e me lo faccio portare di quelli telecomandati. Ma come sta il coso? Come si chiama? Non me ne ammetto. Non ricordo, ci sono anche quelle barchette telecomandate, vanno bene lo stesso. Ma io c'ho il tender con il motore d'otto cavalli, ci metto un paio di secondi a andare e tornare. Io vado a entrare al tuo amore. Sì, tu, però sei quasi. Io andavo a nuoto mi fra a portarle al largo, con le pinne, via, la portavo al largo e poi me le tornavo indietro. Una volta l'avrò fatto roba di 6-7 volte, poi quando ho preso l'orata, il signore ha detto, già se l'ha meritata, già se l'ha lavorata questa orata che ha preso. Vabbè, ma io ho un posto che è privato e io posso entrare perché ho il pass per entrare, non ci può entrare nessuno lì. Mi ci tiro a largo, non c'è nessuno lì, capito? E viaggio qui, dove passa non passa. Ma lì è il paradiso, lì non ci va nessuno già, è una spiaggia privata, capito? Mi chiede a Natalino se è bello come posto, Natalino. E che zona è? Natalino, come posto, ti piace voi? Dimmi fra. Ho detto, quella spiaggia privata ti piace? Sì, io lo vedo. Te lo disegni, ma freddo oggi stava facendo? No, non molto, dai, ci poteva, oggi era una bella giornata, la sera sì però, stamattina ci stava bene, tutto lì. Sì, già, zona le rimbici. Ah, le rimbici, ho capito. No, io avevo trovato un posto con Natalino, all'isolò, lì, perché va bene, te lo ricordi Natalino? Eia. E prendevamo un bel po' di roba, c'eravamo portato anche l'ombrellone, i due, c'erano due che ci avevano portato l'ombrellone, si hanno impiastato l'ombrellone e piccava nei sotto l'ombrellone. L'isolotto Stintino, dove c'era il ristorante d'Antonio, dai. E lì, sì. Però adesso non lo so se si possa entrare. E lì c'aveva la barca, fratello di Natalino. Non ti mandi in a pescare, Rico. Andavamo, in Natalino andavamo, tranquillo. Ormai so c'è la sbarra e c'è anche il custode, non ti puoi entrare. Almeno che lo conosci, allora chiudi un occhio. Kappa, sei capace che lo conosco. Perché vengono a fare la spesa da noi, capito, dove lavoravo. E ora te sono al Moroasi, sotto il pontile, lì è pieno. Ma sono ratte diesel, quindi non li mangio, vi dico. Sono ratte che mangiano le cozze che ci sono lì, e le cozze sono dei filtri, filtra tutta la porcheria che c'è. E mi è fatta mangiare quelle ratte, non fatti, ho fatto una figuraccia una volta con quel pesce. E sono amare, fanno sapore di petrolio. Se buscate una mesolina da 4 kg, tutta la mondetta l'abbiamo buttata. Lo so, è bello pescarle, ma fra, io ho visto la nave, quando è partita ha lasciato la schiuma, roba di 20 minuti, la schiuma a galla, ma la schiuma però... Sì, perché buttano di tutto, detersivi, dallo scarico, per carità. Io te lo ricordo, venivo quando pescavo a te, beh, non pescavo mai, perché lì non mi piace. E diciamo che per divertimento lo puoi fare, ma non fa mangiare la roba che c'è lì, è troppo inquinata, cazzo. Lì loro si mangiano con le cozze di bare di portacieli, ragazzi, sono male, ma le cozze sono dei filtri, filtrano tutta quella porcheria, e quando mangi le orate le mangi a mare, è schifoso, con lo sapore di petrolio. Ma se io ti parlo forse 7-8 anni fa, lì nella panchina ce n'erano a migliaia spaccando le cozze dal muro, proprio a testate, le vedevi spaccarle. E la sparavano anche col fucile, me lo ricordo. E allucinate ora tra 4, 5, 6 kg. Ma cazzo, ci sono inquinati, no, è roba che si può piccano. E infatti. Vai Natalino. Eia. Ma io me ne vorrei andare o a Calamari o a Sitti. Però a Calamari mentre vai per freddo di notte. Di lì bisogna andare, boh. Ma lì i calamari non c'è bisogno di stare tutta la notte, non serve a niente. Il calamaro mangia dalle 5 alle 6, 6 e mezza, poi di Nandi, perché non mangia più. Ma cazzo, quasi freddo, vai, prendi freddo. Già, c'ho un bicicletto, un bicicletto ora. No, ci vogliono tutta termica. Io ho pantaloni imbottiti che ti faceremo risultare. Io faccio la tutta termica, gli hanno passato male il freddo già. E anche la mia era tutta termica, praticamente sono pantaloni imbottiti e giubbotti imbottiti. Quindi fa la tutta termica. Ce l'ho completa io della Plano, c'ho tutta la tuta, stivali termici, la cuffia termica, tutto. Io ce l'ho gli stivali termici. Ma te lo cado, ma la tua sembri, cazzo, che UFO, sembri una di quelle extraterrestri che hanno cammini, e poco insomma. Tanto pisani, fai due passi avanti e due indietro. Perché sono imbottiti, fra, c'hanno l'imbottito da lei. Allucinante, comunque a Calamari bisogna coprirsi bene, se no è un casino, ne prendi colpi d'aria. sì, io prima già andavo già e me l'ho fatto belle nottate in pesca, ma non è giù più gara di farmi. Hai aspetto l'estate, mi vado a cominciare a scaldare bene, quindi lì non le ti fuori. E io, è così che ci fa, perché poi alla fine il padre di questa amica mia si è preso una parisi, gli ha bloccato tutta la parte della faccia pescando così al freddo. Ha fatto il tempo per farvi a ripidare, hanno fatto le cure dovute, meno male si è ripreso, non riusciva più a muovere la parte della faccia, l'occhio bloccato, c'è vero. Se un amico mio è morto lì a Corso, vicino alle nemici, dentro di notte, erano in due, c'è una tutta termica. L'amico ce l'ha tolta dentro la macchina, lui ce l'ha tolta fuori, era sudato, fulminato. Perché così cambia anche temperatura così di corpo, poi le tutte termiche, come quella che ci ho anche i pantaloni, ti fanno sudare, ne esci tutto con le gambe bagnate, grazie dal sudore, ti fanno proprio sudare con me perché sono caldi, capito? Io me lo sono invece che di spendere un po' di soldi, me ne sono comprati dai cinesi, ne ho comprato pantaloni termici e il giubbotto. Ti fa la stessa cosa e non spendi chissà quanto, ma poi gli stivali vengono pagati un mezzo di 50 euro. Sì, gli stivali termici li ha pagati 80 euro, quasi 90 euro l'attore, e la tuta l'ho pagata 240 euro. E arrivassa. Infatti, quelli dei cinesi vanno bene lo stesso, sono i bottichi e fanno lo stesso lavoro. Quindi, a parte che la tuta, diciamo, la tuta unica è fastidiosa pure, già capito, non riesci a muoverti. Io ho pantaloni e giubbotto, tutti quanti buttiti bene, ma ti sto dicendo che non impassa di prendere, non impassa. Fanno anche sudare, è anche troppo calda, capito? Anche di notte, quindi ti fa sudare. Gli stivali non so se l'avevo preso anche io da attore, però no, mi pare che ne avevo presi 60-70 euro, una cosa del genere, 50 comunque, l'avevo preso, quello è il coppo. Il coppo l'ho pagato 25 euro, mi sa, col manico, perché io non l'ho perso, non ho perso, dimenticato, sono tornato dietro e era più, vabbè, l'ho comprato nuovo, tutto lì, vai Natalia. E riprendete voi, dai, vi ascolto che sto cenando io. Io mangia, buon appetito. Fra, io una volta avevo un appuntamento con un amico alle 8, invece sono andato, non riuscivo a dormire, sono andato presto. E detto vabbè, prima di andare a trovare questo amico che dovevo andare a Casamare a prenderlo. E dovevo entrare lì, perché lui c'è la casa lì. E ho detto me ne vado un pochettino dove vado di solito a pescare. Ho messo due canne, ho detto quando poi si fa ora, vengavo tutto e vado da lui. Ho messo due canne e ho cominciato a pescare. E non mangiava nulla. Allora ho preso, ho tolto tutto. Sono tutte in macchina, a casa poi arrivo lì e mi sono dimenticato un portacamera di quelli grandi. Sono ritornato indietro, cosa ti posso dire? Da voi desimenti non venire a b***o. È già furato, te l'hai fatto a me, la stessa cosa. Portacamera nuovo, l'uomo di quelli lunghi. Vabbè. Conviene farci riportacamera, buonanotte, cosa stai a imparare. Facevano gli anziani, facevano loro con l'anese, mettevano saldati a posto di ferro la puntita e via. Sì, ma pensano un drone, quelli che ho io addirittura ho anche il cavalletto, i tre piedi, c'ho il poggiacanna tutto in alluminio, cioè c'ho tutto io, c'ho anche la borsa, la sedia, c'ho tutta l'attrezzatura. Sì, anch'io, c'ho la borsa, però vuole cambiata perché mi sono rotti i manici, non ho i manici, cosa per prendere l'altra cosa, siccome è pesante, perché c'è un po' di piume, un po' di roba all'interno, e quindi devo prendermi la sacca nuova. Ah, dico che non la borsa di pesca direttamente, ci sono la torre 39 euro belline con tutti i contenitori. E vabbè, ma io c'ho già il coso di plastica di quel tipo portato. tristi, dai, che è tutto quanto pieno di api, di cose, ci sono tutti gli scompartimenti, capito? Mi piace di più così. Però penso, io strada, vabbè, non mi si manco con la borsa perché è troppo pesante, mi devo decidere a prendermi quattro cazzate e basta, perché mi porto una baradana di roba. E manici di mulinelli, e bobine, guido, chitarra, per forza peso. Ma quando si fa a pescare io mi porto il necessario, ho già la borsa di pesca, c'è tutto, lenze, piombi, ami, tutte le misure, non è molto pesante, e va bene. Io mi porto una borsone grande e non ne faccio niente. Io c'è tutto quanto lo stesso, ma più mio ne ho me, capito? Quelli che pesano me. Ne ho di tutti i tipi, ne ho siluro, ne ho rotondi, insomma ne ho di diversi tipi. E quindi in base al mare che c'è, c'è quello anche che si inficca nella sabbia, quando c'è mare, c'è la presente che c'è tre piedi. E ce l'ho pure io quello, cioè quello da un metro, un metro mi sa che allunga due metri, e non lo uso, mi ce l'ho qua a casa, non lo uso mai, uso sempre i poggiacarne normali, quelli da mettere in spiaggia. Sì, vabbè, e comunque l'attrezzatura ce l'ho, l'ho aperta l'altro giorno, tutto lucido ancora, bello pronto, addirittura c'è tutti gli ami fatti, invece nel sughero, avevo comprato quei sugheri fitti in gomma piuma di quella grossa, e d'attore, e l'avevo fatto già tutti i terminali pronti, di modo che se tu di notte prendi una cosa, non devi sapere l'amo, quindi attacchi alla cosa, allo scrittore e basta. Perché io ce li ho così. E gli ho messo dei chiodi, no? E dopo li avvolgo. Io quando pesco, dove sono di notte, magari si attacca qualche orata, qualche mormora. Prendo e sgancio direttamente il moschettone. Scusa un attimo già. E già mi prende il caffè un secondo. Sì. Avanti se c'è qualcuno su 10 che vuole entrare. E te mali. Bomborino, bomborino. Ui. E dove in girella? E non c'è la fredda. Perché già camminando sta? Ah, oh, no, vabbè, quel batterino ancora non sta camminando. Vedi che fa cacchio in basso. Vabbè, andare. Comunque, è fatto bene a farli prendere un po' d'aria, ma quando c'è il sole però la vava è fredda. A farli prendere un po' d'aria, sì. No, ma perché c'è il sole? Piccolo sì. Oh, ma sembra più grande, è bello faccio un po'. Beh, lui è un po' quanto pesava qua della? Quanto pesava? Io 4 kg 9,50 io pesavo. Ma lo sei nato tu? E allora? Però a me diciamo, non so se mi metto a crescere. Ma non ti serve a sentire questa. Sì, cosa compavo? 62 di altezza. Sì, ma crescono in fretta, tu, adesso crescono in fretta, ma con dinamici tu. Via. Ero quasi fatto un porcetto. No, vabbè. Non capisco perché è Marco, non me lo dico. È Albino, però non è altro. Marco, è altro quanto me, Marco. E forse. Marco, se non è più alto di me, è quanto me. No, tu no, sei sbagliato. È alto Marco, e a voi. È alto quanto me, forse mi supera anche di qualche centimetro. Se è alto, è mai alto, cavolo. Vabbè. Già vuol dire che si è andato a fare. Quando era piccolo era basso Marcolino. La patata Natale a voi. Ma c'è Natale io, è basso, perché può comare. Natale, fattatele voi. Oh, a tu. Vabbè, comunque già crescono in fretta ora, ma con di Nabizza ti volano. Ciao Natale, buonasera. Buonasera. Allora. E mangiando sto. Non mi sento bene, no? Ciao. Come è stato? Eia. Questo qua, boh, come sta male? Perché può cuovere. E perché tu non sei drogato? Come tu sai? Spacciatore tu per la fede. No, ma non ho visto il sono anni che non lo vedo. Che cammina piano piano. È anziano, Come è anziano? Da 80 anni già. Non è poco. Ma aspetta. Che testa è quella di un bambino? Adesso mi saremmo sempre il telefono al mondo. Chi lui? Cosa? A fare il gioco della casa. Conosco il nipote, conosco. Cosa ti ha detto? E poi io con la cara ci sono anche entrato, non abbiamo abitato la mamma, una volta, ma dove abita lui? Sì. Dice che abita la strada di Sorso. No, dove abitava lui, la cara sembra lui. Quella di San Simplicio, quella Gesù Giuseppe Maria. Regione Gesù Giuseppe Maria. Ho capito, sì. Non so dove abitava, sono andato anche a casa sua io. Sì, ce l'ho portato spesso. Non so. Quando si chiama l'altra. Tanto è poco rimasto di farmi. A parte i Natali. Sono impegnato ancora con un piatto di patatine fritte. Carboidrati. Sì, carboidrati. Sono agganciato, aspetta. Carboidrati già, è un casino. Io mi sono mangiato un piatto di calamari fritti, e poi calamari fritti, oddio, da 13 gommosi, e più un delle patatine, e quindi sì, io l'ho allucinante. E dove li hai presi? In via Sardegna. No, io i calamari fritti li ho mangiati solo muri, ma muri veramente al muri, quando c'era il vecchio proprietario. Lì sì che li mangiamo bene, perché mi portava Agostino, un amico mio, e mi ha detto qua prendono calamari prima, li prendono da noi, vai lì che sono buoni. Cazzo, ma vedi pieni buoni, invece questi che compri al supermercato sono buoni, tutto gatto in panatura, non venuta da... Infatti si seccano, no, questi lì erano 5 musi, fatica a masticarli, ma fatica. Anche quella ragazza che era con me, anche lì ha avuto, infatti si deve la ragione, sono 5 musi. Non siete passati né uno né l'altro, siete tutti e due sovramodulati. Non ho capito già, cosa hai detto? Mi siete sovramodulati, non ho capito nulla, non so con chi, se è Natalino, se è ma penso morto. Stavi dicendo lui? Ho detto che anche quella ragazza che era con me ieri mi sentiva 5 musi, infatti li ha lasciati, non mi sono piaciuti, cazzo, ma 15 euro il piatto. Ho speso, praticamente ho preso due piatti, due calamari, calamari e patatine, due bottigliette d'acqua, ma quei 5 mi 34 euro. Ma praticamente dove siete andati a Blackstone? No, via Sardegna, c'è un circolo lì. No, io vado al Black Store e li mangio buchi. Io già li organizziamo già, dai, se non te l'ho detto. La prossima settimana, no, questa settimana, questo fine settimana sono impegnato che ho Carnevale. Perché a Carnevale devi andare? Sì, a Copacabana praticamente fanno la sfilata, dai, ci sono due carri, mi devo vestire da brasiliano. Mamma mia, ti posso dire, con la gonnella frugoli. No, pantaloni neri, scarpe nere, e poi gocce di vita nero con una camicia gialla o rossa. E poi non lo so cosa mi devo mettere, boh. Queste cose, queste soglie, non lo so, soglie si chiama. Soglie, boh, non so come cazzo si chiama. Va bene, dai, ma sfilate in città. Sì, sì, a piedi dietro il carro, sì, sì. Ti passa bene con lo zanga, Luca. Vieni a te, ma mi ne scegli la cuglio per fuori. Se ne c'è la cuglio per fuori, mi. Fate da bravi. Quando riprendi. E tu non ci vai a sfilare? Io. Antonio. Coriandoli, però non li devo buttare in terra. Beh, sono un casino. Lo conosci quel cuoco, male, già, lo conosci. Non parli, eh? Non parli, già, di doppio lui. Oh, lui. Ma sono comprato a pezzi di tutto. Sono la fine del mondo, lo sai rompere. Io che andare letta, come c'è quel partito. Mamma che roba buona. Ascolta, domani mattina ci sei tu, se riesco a recuperarmi una busta almeno. No, domani mattina non ci sono, ma che non faccio tardi. Sto facendo un bisogno di terapia. Ma ogni anno la fai? Certo. Ogni giorno la fai? Mi no, che buono, scusa. Ho detto, se la fai ogni giorno la fisioterapia. Ehi, dov'è punta? Non per me è stata fino a me. Sì, cosa che mi va in via, mezzogiorno a casa. Adesso vediamo, là. Vediamo, così mi recuperavo la busta. Poi là, tanto, solo c'è fretta. Tu devi aspettare perché dobbiamo sistemare la sua busta che me la sta crollando. Sono di grandi problemi, se no avevo un amico, te li porto via e ci li butto. No, non mi imbarazzo, non mi dà nessun problema. Non ho capito, scusa. Sono in garage, sono. Non ti preoccupare. Sì, va bene. Ma se l'ho messo in moto la disfogliatore? Solo che cazzo mi sei capovolto, la benzina ha perso, vaffanculo. È un casino, dovrò fare qualcosa per appenderlo, lo sgabuzzino. Però finché non lo sistemo, lo sgabuzzino non posso fare nulla. Non capagà. Cavolo, ho comprato questi biscotti, io, Luca, ma buoni. Cavolo, ho dato una montagna unica, ci sono fatto gli altri cadere. Cazzo che cosa buona. Sembra anche come mio, certo. Io? Super tanto. Bello, bello. E me l'hai comprato? L'avevo fatto il cambio. Bello, qua. Allora, questa radio qua è che non c'ha il dissipatore. Poi è a volo finale, però vanno bene, dai, se non li tiri troppo. Ma il jump l'hai levato? Il jump là dentro l'hai levato per avere più canali. Jump? Sì, c'è un jump dentro. Quanti canali c'ha? Ho capito, ho capito, io. Faccio un po' di bronchite, boh. Sì, tutto dentro mi faccio i mani, le palle va. Già, ho provato questi savoiati che sono la fine del mondo. Ci si positivo, frate, dopo te la roba fa fare, troppo, faccio un bel tazzone di latte col miele, e ho regalato questo miele, la fine del mondo, buona legge, fatto da loro, okay. Buono, buono, buono. Comunque il televisore l'ho sistemato, domani mi incasso 50 euro. E altro c'ho tanti gusti, poi ci sono da fare un lavoro, 50 euro. Insomma le giubate. Insomma le tone. Quindi in casa è praticamente 100 euro. 50 con il televisore e 50 da due computer l'ho sistemato. Oh, scusatemi se avete chiamato, ma era al telefono. Stavo dicendo già che ho promesso questi savoiardi che sono alla fine del mondo. E li ho visti, la mia suocera li faceva lì e poi quella rimoni. Morbidi, morbidi, rimanendo. Si chiamano la casericcia, ma tu devi saltare questa cosa. Aspetta meglio che ti spiega la casericcia. Supermercato? No, dove c'è quello che fa la pasta fresca? Boh, non lo so dove, non lo so, non sono mai andato. All'inizio. Ah, dove c'è San Vito, la pizzeria. Però so che all'inizio sono, come c'è il negozio degli interessi. Ho capito. Vabbè. E lo stesso savoiardi sono buoni. Addirittura mamma faceva tiramisù con i savoiardi, adesso ci mettono i pavesini, mamma li faceva con i savoiardi, ma di chi si vuole avere? Pavesini vuole da capire, non può cazzare. Vuoi savoiardi buoni, siccome non voglio già, ma tu devi assaggiare questi, che buoni che sono. Adesso vuol dire che sono perché ha fatto domenica, che buoni, guarda. Non me le dire, queste cose mi fanno venire la culina in bocca, pure. Però mandati le tagliatelle, mandati la pasta, buona retta, E ci credo, se la fanno fresca, sì. A me mi si sono scaricate tutte e due le bombole oggi, tutte e due, quella di riserva e l'altra, meno male che avevo già cucinato. No, non le ho prese, le prendo domani, non le ho prese direttamente, stasera mi arrangio, mi mangio una caprese, qualche cosa, mi arrangio così, poi domani le prendo. Se tutte e due di colpo, vabbè, quella lì di riserva l'avevo trascurato un po', e te già dura ancora, alla fine va tutti. No, ma mi hanno fatto cucinare tutto, ho avuto una canna, anche la roba di tasso ho cucinato. Ma quanti lui? Sì, ia, ia. Cazzo, facciamo sto cavolo, così tossire, sono tossia... Io sto prendendo troppo freddo, sto prendendo troppo. Mi sa che ho appendi, qui da pure, bicicletta la devo lasciare in casa. Ma dove stai venendo? Ciao, tipo la voleva, solo che non si è fatto più sentire. Se volevo prendere una più potente, più veloce, la cosa più seria, quella alla fine diciamo va bene perché c'è la batteria nuova. Diciamo che da una parte me ne sono pentito, avrei speso quei 300 euro, non sono proprio pentito. Ma da una parte vabbè, mi ci sta anche, perché la uso per commissioni, insomma andare in un posto, ci metto 5 secondi ci metto. Tipo ieri dovevo scendere la Copacabana, ci faremo a piedi, mi pulito molto poco, invece lì ci ho messo 5 minuti in bicicletta, sono occupata a razzo. Non so, la batteria proprio ti dura. Questa qua dura un bel po'. Quella c'era la prima, quella che c'era Antonio. Quella doveva di quel niente. Ho mollato pure rapidi, ma mullato. Questa praticamente c'ha dai 30 ai 40 km di autonomia. Dipende da come la usi. Comunque fallo 30 km, dai. È già abbastanza, già va bene. Ah, io non so cosa fare, me la venderei e poi quei soldi lì per la macchina, li aggiunge e via. Ma infatti, la macchinetta, io compro quei soldi lì, tipo 100 euro, stava prendendo un Apollo, 1000 euro, poi più passaggio fai 1000, sono 1300, 1400, più assicurazione intorno ai 2000 euro me ne esco sulla macchina. Perché volevo fare così praticamente, ti spiego, volevo fare l'assicurazione, la proprietaria che paga poco, e poi vendermi la macchina con l'assicurazione, per un anno. Hanno visto. Quello che stavo dicendo, ma perché non ti fai quell'assicurazione che ti ho detto io, che paghi mensilmente, non te ne accorgi nemmeno. Non cosa ti so, come la voglio di palluta già? Non è che devi, cioè questo di mille volte ti stia bene, perché mi bisognava che avremmo questa magna, ma anche no. Sì che si può fare, lo faccio subito al passaggio, ma improvvisamente per loro con l'altro così, poi faccio il passaggio. Scusa un attimo, ma se lì mi vede la macchina assicurata, la deve disdire l'assicurazione. Una cosa di un'ovuria, ma cosa fai? Devi disturbare a lei per andare all'assicurazione? Tutto un casino. No, ma se vuoi te la posso fare, ma per che fai? Ma vediamo. Insomma, ora come lo devo comprare niente? Se può, capito, non se può, niente, mi dico un po'. A me non è parato di stare in auto, vabbè, io nella macchina pagavo poco, da poi visto mi hai facciato la macchina, mi ha combinato tutta durata, non mi sono andato in piano, pagavo poco per la macchina, per la moto tutti gli anni in laga, giocando a tutti mi facevo aspettare parlando. Però bisogna vedere a tu, perché già, diciamo già che l'ha patentato tanti anni come ce l'ho io, magari pago molto di meno, non ero patentato, pagavo un patrimonio, paga. A meno che usufruisce della legge Bersani, allora sì, paga una cazzata. Ce ne sono tanti così, e a casa non venisci uno. Perciò non posso usufruire di niente, capisci? Buono, buono. Ma è accuccia, lei ci viene lì, dai, esci, ve lo becco, va per accuccia. Ti ecco un attimino che vado a fare la tua mamma. Dai raga, io vi saluto, dai, che sto andando. Ci sentiamo magari domani, dai, ciao a tutti. Ciao Gianni. Due secondi arrivo. Ciao Gianni, vi saluto anche io che devo chiudere per forza, sennò chi tu televisione non ne vedi. Ciao, ciao. Ciao. Buonasera. Check prova. Check prova. Check prova. 10, c'è qualcuno? Attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Ora, attento 10. Ciao Robè. Ciao Gabi, e beh, dove stiamo andando? Beh, Robè. Stiamo andando, facendo... Ho trovato roba su quell'antenna. Beh, per la 27. Aspetta, che succede con questo superstar che c'è su qui nel microfono. Sì, sì, per la 27. Si chiama Firenze 2 Aurora. L'ho vista, infatti, cioè di nome io la conoscevo da tanti anni, qualcuno la vantava prima della Manto, ma è uscita, per quanto ne so io, negli anni 70, 75, 76, una delle prime antenne, diciamo, dopo la Grand Plane, diciamo, come tipologia che ha fatto già, diciamo, l'hanno usata un po' di gente, soprattutto in continente, poi magari qua è arrivata un po' in ritardo. Sì, sì, è un'antenna, vabbè, l'ho presa, l'ho pagata a 40 euro piedita, è un'antenna a balcone. Un'antenna a balcone, però ha fatto parte della studia, quella lì la teniamo in garage, dai. La teniamo in garage, la teniamo bene, perché è bello anche averla con le cose lì. Se è in buone condizioni, se non è stata usata, non è che si può anche adattare per altre bande, è sempre un'antenna, cioè già non si butta, già non si consuma, dai, è quello lì. Te l'ha venduta a 40 euro spedita, però chi l'ha detto dal balcone? Io pensavo fosse un'antenna da mettere su un terrazzo, sul tetto, dai. No, dalle ricerche che ho fatto è un'antenna a balcone, a balcone, infatti è 1,75 m con 4 radialini e ha solo 2 radiali, ha solo uno sfilo, mi segui, e dopo ti mando il coso su WhatsApp, le discussioni sono su quarantena. No, lui ce l'aveva, va molto bene, c'è gente che ce l'ha ancora e va molto bene, l'ho trovata più cosa. Ah, quella adesso la sto guardando meglio, sono i radialini quelli che ci sono nel coso, pensavo fosse un coso di accordo, uno stilo di accordo quello che c'è di lì, c'è una specie di carica sotto. Guarda che non sei uscito, è tutto fischieri, capi? Non stai uscendo. Ma sei tu, capi? Capo che devo cambiare, scusami, ma c'è un capo che devo cambiare in questo microfono, sto usando Superstar perché ho spento le radio e c'è un capo del microfono che devo cambiare, mi sta dando problemi, guarda, mi fa venire un nervoso, adesso prendo lo sbatto a terra. E attenzione che avrei anche qualche problema di segnale, perché sei poco meno di 9,10 e poi aumenti, così a tratti. Adesso dovrei essere a posto. Adesso dovrei essere a posto, confermi? Sì, adesso stai andando. Ok. Sto usando un Supercar 3009 adesso. C'ha la voce tipo Alberto Lupo, bella piena di bassi, carica di bassi. È positivo. Sto usando un Supercar 3009 con un MB4 fatto da me. Con uno Shure SM57, ti mando la foto. È tutto modificato. Ciao, no, già ci fa sentire, sembrava un HF, perché la modulazione è bella corposa. Sì. Va bene, niente. No. Guarda, questo tipo ha tante antenne, dal siciliano, hai capito? L'ha messo in un gruppo. Però antenne buone, anche direttive, anche delle direttive. E dov'è, che gruppo è questo? È un gruppo che è stato formato su delle pagine Facebook, ti mando il link. Anche delle direttive, delle antenne veicolari, un po' di roba, vabbè, a me del veicolare non me ne frega niente, a me del veicolare non mi interessa, però magari sì, qualche antenna di collezione, io sono appassionato e quindi me la prendo quella lì. Poi niente di strano, ve la piazzo, non è che mi fidi più di tanto, niente di strano, ve li tiro su un altro terriccio a 4 minuti e la piazzo. ma guarda, chiudere le antenne è meglio, non è un problema, perché poi puoi anche ottimizzare, per dire, con un commutatore metti prima una all'altra. Io faccio così, io ho un commutatore remoto da 5 posizioni della Meritron e commuto 5 antenne più un altro cavo sull'apparecchio, sul TS2000 posso mettere anche c'ha due ingressi per le HF, c'è un ingresso la mantova e nell'altro ingresso ci posso mettere 5 antenne e commuto. In questo caso ne ho solo 4 collegate, in attesa che metto la cubica con la spider, due elementi con il rotore, però quella la metto quando inizia la bella stazione. Per il momento ho 4 antenne collegate di lì più la mantova, in tutto sono 5 su TS2000, che poi a sua volta le posso commutare per un'altra radio, per il 940 e per l'FT3000 tramite il Magnum. L'hai visto con l'accordatore, quello grosso della Magnum, lo sto usando in questo caso come, siccome lo puoi usare come commutatore d'antenna oppure come accordatore oppure carico fittizio, in questo caso lo sto utilizzando come commutatore. Riprendi? Sì, no vabbè, a me mi interessa un'antenna per ogni radio, non mi interessi più di tanto. Stamattina mi ho messo su una carrucola per tirare, perché quell'antenna a filare che avevo era ancorata, non era ancorata benissimo, era giusto una cosa per provvisoria per testarla. Mi ho messo sul calice un Aliscaf con un salfancora in acciaio inossidabile, un salfancora da 27 centimetri, tira una tonnellata, usi tutto in acciaio e alluminio, non corrode niente. Mi sono accorto però che c'ho il basamento che ha mollato un tassello, adesso quello domani sera si rende prezzo, come io ho fatto telescopio, che si può abbattere all'indietro in modo che possa regolare l'antenna. Domani l'abbasso e gli cambio il tassello, non ho capito cosa mi sia successo. Mi è entrato dentro il basamento che gli ho fatto e una mollata. Vabbè, ce ne sono 8 tassi da 16, tutto a chimico, per uno ha mollato, non ho capito il motivo. Comunque c'è di nuovo i problemi del radio, stai alzando e abbassando il livello microfonico. Adesso lo sbatto a terra. Guarda, questo cavo, siccome l'ho allungato, deve avere qualche fissicatura, siccome lo conservo sempre questo microfono. Un altro giorno l'ho preso e l'ho... Non mi sono accorto, l'ho incastrato nel mobile, dove si è certificato da qualche parte. Stare un po' attenti, dai, controllare bene le saldature, che non ci sia qualche pezzo di plastica dove infili, diciamo, dove c'è lo spinotto che magari è mezzo sboccolato, non lo so, tante cose. Infatti bisogna stare un po' attenti, meno male non succede niente perché non ci sono alimentazioni, ma se ci fossero male di alimentazione bisogna stare un po' più attenti. Ok, e ci ha messo un salpanacco alimentato a 12 volt per far salire il carrello. No, un salfancora a mano, è un salfancora a mano, una carrucola a mano che avevo dalla barca e l'ho messa, intanto non lo sto usando. Salfancora, diciamo quello che si usa col pallone per non fare fatica con le braccia, capito? Metti in moto, vai a retromarcia e ti porta sull'ancora da solo. Ne avevo uno di scorta in acciaio bello, e l'ho messo su altra liccia. Io metto un arganetto normale, ce l'ho già quello dei gommoni per sollevare il carrello, cioè sul carrello per sollevare il gommone, uno di quelli che tanto peso non lo deve sollevare più di tanto, sarà con l'antenna mi pare che pesi 50 kg, 56 kg, poi c'è il carrello, non è che deve fare, ci sono i rulli in teflon, non è un peso così eccessivo, dai. Per cui, però sempre se ce n'è uno più robusto è sempre meglio. Sì. Ma tu abiti in palazzo, Roberto? Come? Tu abiti in palazzo? Io, certo che sì. Caspita, hai trovato persone che ti fanno montare tutto sul petto. No, è roba della famiglia nostra, il terrazzo, no, non ci sono problemi. Il problema è che non è che posso calpestarlo più di tanto, perché l'abbiamo fatto da poco il coso, il scatolo è catramato, la guaina, perché c'erano delle pietre, devo stare un po' attento quando si sale, per cui ho fatto in modo di non toccare il terreno, ho messo tutte le antenne fissate in posti dove non ci siano problemi, perché la ricetta lo dovrò mettere, la base è già piazzata sul coso, sul pilastro in cemento armato c'è uno scatolare da 40 con degli staffoni grossi, col chimico, ne va la barazza, però quello non ne scende. E poi l'altro pezzo di sopra piastrato con la mettone grosso, con bulloni passo da 12.